Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà per una nuova puntata di Overbooking. Anche questa settimana ci occupiamo di un nuovo romanzo. Parto con i doverosi ringraziamenti a quella che è la redazione e a quanti mi danno una mano per la realizzazione del programma, a partire da Matteo Polo, Daniele Terzarioli in regia e Elisa Veronese, che anche questa sera ci porta a conoscere il libro della serata tramite le sue letture. E ringrazio e saluto Lucio Caneve, che è l'autore di Nulla è come sembra e che è con noi questa sera. Buonasera Lucio. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Lucio Caneve pubblica Nulla è come sembra, che esce per Chimerica Editore nel 2010 e quasi subito è un caso letterario in quel della provincia di Venezia e più in generale della regione Veneto e del nord Italia. Allora, ci vuoi introdurre brevemente un po' di che cosa parla il libro e come è nata l'idea di questo libro? Beh, Nulla è come sembra è un libro che parla di una storia di vita che può succedere a chiunque. Il protagonista Marco si trova praticamente a dover affrontare la perdita di tutto ciò che aveva costruito fino ad un dato momento. Il protagonista ha circa 50 anni e di conseguenza si trova senza lavoro, senza amore, senza una famiglia, senza una moglie, di punto in bianco per una storia che gli succede. E di conseguenza dopo deve affrontare una serie di situazioni poco belle, nel senso che senza un lavoro a 50 anni non è facile e dopo chiaramente anche per quanto riguarda gli affetti si ritrova praticamente solo e disperato. Da qui nasce poi tutto ciò che riguarda il secondo capitolo, che è più propriamente introspettivo in qualche modo, e dove praticamente Marco spiega come ha fatto a venirne fuori da questa situazione tremenda in cui è venuto a trovarsi a rinascere, diciamo, e a vedere la vita di nuovo con occhi di luce, anziché rimanere nel profondo del barile dove si era venuto a trovare, insomma. Sì, perché per quanti ancora non avessero letto appunto Nulla è come sembra di Lucio Caneve, il libro in pratica, per come l'ho letto, si articola in due parti. In una prima parte c'è una riflessione di Marco che ripercorre gli eventi che hanno portato a una relazione clandestina che nasce al di fuori dal suo matrimonio, che lo porta a terminare il matrimonio in maniera spiacevole, che gli distrugge la vita che si era creato in anni e anni, sia in termini lavorativi che affettivi, che anche di rapporti, non solo appunto con l'ex moglie ma anche con la famiglia. E poi c'è una seconda parte invece molto più introspettiva, in cui Marco riflette su quanto ha fatto e diciamo, aiutato da vari stimoli di cui poi mi piacerebbe parlarsi, appunto da una soluzione positiva e una soluzione, diciamo, di evoluzione a quella che è stata la sua storia. Allora, io andrei con la voce di Elisa Veronese a introdurre quello che è Nulla è come sembra di Lucio Caneve, e quindi ne leggerei, come è nostro costume, l'incipit. Eccomi qua. Sono le 20:30 e sto rientrando a casa, il mio mini appartamento arredato e in affitto. Metto la chiave nella toppa e giro, un gesto automatico che faccio ogni sera per ritrovarmi da solo con i miei pensieri nell'unico posto dove posso andare. È fine novembre, Natale si avvicina e questo mi porta ancora più tristezza nel cuore. Sì, perché in questo periodo dell'anno, dove tutti si ritrovano in famiglia, sento ancor più gli effetti di tutto ciò che mi è successo. Dopo 24 anni di lavoro da libero professionista, dopo 9 anni di matrimonio con Anna, di punto in bianco, da un giorno all'altro, più nulla. Mi sono separato da mia moglie, sono rimasto ingannato dalla donna che ho conosciuto e per la quale mi sono separato. Ho perso il mio lavoro costruito anno dopo anno e con fatica. I miei genitori fanno finta che io non esista più. Ho perso tutto. Non ho più nulla, né affetti, né amore e nemmeno un lavoro stabile. Apro la porta ed entro. Appoggio il cappotto e la sciarpa su una delle due poltroncine rosse che mi sono portato via dall'ufficio che avevo e mi guardo un attimo attorno. Ci sono i pochi mobili dell'IKEA, impiallacciati in marrone scuro, un divano in finta pelle, anche questo marrone, la cucinetta, i quadri alle pareti fatti da me con l'aerografo che danno un po' di colore al mio piccolo mondo. Il letto matrimoniale nella camera è essenziale. Ci sono anche due mobiletti bassi, un armadio, tutti marrone e rigorosamente imbiallacciati, e naturalmente anche questi dell'IKEA. Un piumone sintetico di color giallo-oro, anch'esso messo a spezzare la tristezza dell'arredamento scuro, copre il letto ben fatto. Non l'ho mai usato. Sono quasi 2 mesi ormai da quando sono arrivato qui ad abitare che dormo sul divano. Ho un rifiuto di andare a dormire a letto. Non so ancora il perché. Accendo la televisione, ma non l'ascolto e non la guardo. Mi basta spezzare il silenzio. Non ho fame, ma ho deciso di farmi comunque qualcosa da mangiare. Cucinare mi aiuta a farmi sentire meno solo. Decido di fare degli spaghetti alla carbonara, quelli che mi riescono meglio, e mentre aspetto che l'acqua bolla, preparo la piccola tavola con un canovaccio al posto della tovaglia, le posate e un tovagliolo di carta. Vino non ne ho, e forse è meglio così. Mentre cucino, Penso a tutto quello che mi è successo. Penso e cerco di trovare una risposta a tutti quei perché che continuano a frullarmi per la testa. Ma perché è accaduto? Perché proprio a me? Che cosa ho mai fatto di male nella mia vita perché tutto questo potesse accadere? Queste sono le domande che da mesi ormai continuo a farmi, senza peraltro trovare alcuna risposta. Questa era Take On Me, una cover dei famosi Ha-Ha, e una cover curata da un artista canadese che si chiama AC Newman, che vi consiglio caldamente. È un solista per, in sostanza, chitarra e voce, e lo abbiamo scelto perché un po' ci ricorda, almeno nella sua passione per la chitarra, il protagonista dell'opera di questa sera. Siamo sempre sui 102.2 di Radio San Donà e con noi c'è Lucio Caneve. Buonasera a tutti. Allora, andiamo un po' a esplorare quello che succede nella prima parte del romanzo. Beh, nella prima parte del romanzo il protagonista, che si chiama Marco, si trova appunto a dover affrontare una, un accadimento improvviso nella sua vita che gli fa perdere tutto, ogni cosa, tutto ciò che aveva costruito fino ai suoi 47 anni di età. Quindi un lavoro costruito in 24 anni, una moglie con la quale si separa dopo 9 anni di matrimonio, e oltretutto dopo si trova a dover affrontare anche l'inganno di una persona per la quale lui si è separato e della quale si ama, si è innamorato, e che gli ha distrutto anche il lavoro, appunto, attraverso un meccanismo subdolo che lei ha messo in atto senza che lui se ne accorgesse. Dopodiché, appunto, si trova a dover riaffrontare tutta una serie di vicissitudini per riuscire a venirne fuori. Quindi c'è una prima parte che parla appunto di questa storia, che è molto complicata e sotto certi aspetti anche intrigante e anche un po' inverosimile, diciamo, perché molto spesso le persone che mi fermano per strada mi dicono: ma come è successo una cosa del genere? In realtà può succedere senza oltretutto che il protagonista se ne accorgesse. Oltretutto la storia è una storia che ha dei fondamenti con la realtà, quindi è perfettamente in linea con... non è stato inventato nulla, diciamo. Dopo, nella seconda parte, appunto, invece c'è un discorso di recupero di quella che è tutta una serie di cose perdute da parte del protagonista, e con delle considerazioni anche importanti, perché si ritrova quindi a rispolverare tutte le sue vecchie letture, le sue vecchie letture di meditazione, di pensiero positivo, di legge di attrazione, e a mettere in pratica un po' tutto ciò che aveva immagazzinato nella sua mente per riuscire a venirne fuori, e alla fine ce la fa. Allora, la prima parte del romanzo si articola in sostanza intorno a quattro figure. Sì. Si tratta di due coppie, una è una coppia, diciamo, la coppia del protagonista, che si chiama Marco ed è sposato con Anna. Con Anna. Anna è una figura con cui... un particolare secondo me interessante è il fatto che Anna è molto più grande di Marco, e sì, Marco non si è mai sentito completamente capito e si è sempre un po' considerato la parte che deve cedere, la parte che deve un po' andare incontro, e mentre il carattere forte predominante nella coppia è appunto Anna. Sì, è vero, nel senso che Anna ha 10 anni in più di Marco, di conseguenza Marco si era già accorto che c'era comunque uno sbalzo generazionale troppo elevato rispetto a quello che era la normalità delle cose, diciamo. Di conseguenza si trova a dover affrontare proprio un tipo di concezione diverso nell'affrontare certe cose della vita e anche del matrimonio. Molto spesso il carattere forte di Anna poi lo portava anche a lasciar perdere, a cedere per non andare avanti nei litigi o in cose del genere, proprio per, diciamo, lasciar stare che non nascessero cose più profonde, diciamo, da discorsi nati per cose piccole magari. Di conseguenza lui cede quasi sempre il passo a ciò che decide Anna, proprio per il buon stare, il quieto vivere, ecco. E poi questa coppia, appunto Marco ed Anna, conoscono un'altra coppia con cui diventano amici, fanno delle vacanze insieme, fanno delle uscite, vanno a Jesolo, e si tratta di Paolo e Sonia. Sì. Paolo e Sonia sono più o meno anche, diciamo, sono comparabili, nel senso che più o meno l'estrazione è la stessa. Marco è un assicuratore, Paolo è un avvocato, e tutte e due le mogli collaborano nell'attività dei mariti, e nasce un'amicizia, diciamo, molto molto anche duratura tra le due coppie, e che si trovano bene nell'uscire assieme, eccetera eccetera. Ma a questo punto si fa avanti la figura di Sonia. Chi è Sonia? Sonia è una persona che Marco appunto conosce un giorno mentre era assieme alla moglie che beveva un aperitivo in un ristorante del centro. Questa qua si presenta, diciamo, salutando la moglie, alzando la mano da lontano, e di lì dopo si mettono un po' a chiacchierare del più e del meno. Marco non la conosce, di conseguenza ha solo per lei frasi di circostanza, ma comunque sia, alla fine succede che Sonia, con un pretesto, gli chiede se poteva prestargli il cellulare perché doveva avvertire il marito che ritardava e lei aveva dimenticato il suo in macchina. Di lì poi Sonia memorizza il numero di Marco e inizia a telefonargli, a fargli una serie di proposte, di avance, sia con messaggini che con telefonate vere e proprie. Marco chiaramente pensa che sia solo così una simpatia o un modo, perché questa donna è molto esuberante, un modo di fare di lei. In realtà poi col passare del tempo si accorge che la cosa diventava più seria e che Sonia cercava veramente di conquistare questo Marco, insomma, di conquistarlo. Da qui ne nasce un rapporto extraconiugale tra Marco e Sonia, condotto, diciamo, in prima persona da Sonia, nel senso che la parte del leone la fa Sonia. È Sonia a cercare Marco moltissime volte, appunto tramite telefonate, messaggi a partire dalle 8 del mattino, quando appena Marco esce di casa per andare al lavoro. E la loro relazione, tra l'altro, va avanti perché si crea un legame lavorativo tra Marco e Paolo, sì. Per cui Marco inizia a fare l'assicuratore, inizia a curare delle pratiche di assicurazione per Paolo, quindi Sonia fa da tramite e da lì si genera questo pretesto. A questo punto che cosa succede? A un certo punto però il Marco è titubante, un po' alla volta inizia, diciamo, dare una qualche maggior fiducia alle lusinghe di Sonia e da lì Sonia è una persona molto, come dicevo prima, esuberante, molto espansiva e fa capire a Marco di essersi perdutamente innamorata di lui e glielo dimostra in tutti i modi. Glielo dimostra con dei regali, con delle parole molto calde, appropriate, e Marco alla fine, pur essendo appunto titubante all'inizio perché ha dei forti principi morali e non voleva rovinare la famiglia, non voleva distruggere il matrimonio, alla fine si sente chiamato in causa perché il suo cuore inizia a battere anche a lui per lei, per questa Sonia, e di conseguenza, dopo essersene innamorato, diciamo, cede alle sue lusinghe e inizia proprio una storia, una vera e propria storia clandestina. Fra le altre cose, poi, come dicevi tu, Marco, essendo assicuratore, inizia a curare tutto l'aspetto assicurativo di Paolo, che è il marito di Sonia, e di conseguenza la sua arma diventa una cosa che si ritorce anche nei suoi confronti nel momento in cui capisce che Sonia non era la persona giusta per lui, perché questa comunque aveva tutti i presupposti per poter riuscire a ricontattare Marco nuovamente, ritornando in ufficio appunto per curare gli aspetti delle polizze del marito. E allora andiamo a sentire un secondo estratto dall'opera di questa sera, e sempre Elisa, e prego. Già, Anna, è una vita che ci conosciamo. È una brava donna, simpatica e di compagnia, con degli alti valori morali e vuole bene alle persone. Con lei però è difficile riuscire a far valere il proprio punto di vista, la propria opinione su un qualunque argomento. È come se fosse ingessata nel suo modo di credere e di vedere le cose. Questo fa sì che non lasci molto spazio di ragionamento e di dialogo. Il dialogo è una cosa fondamentale in una coppia. È indispensabile per il buon proseguimento del rapporto. Senza di questo, una coppia non è mai completa, perché in effetti non è mai un tutt'uno, non entra in risonanza, manca la sintonia. Con Anna ci ho vissuto assieme per 13 anni e nonostante la convivenza non sono mai riuscito, nel mio proposito, di essere ascoltato. Dopo quella sera, nell'appartamento a piano terra della sua casetta, sento che il mio cuore è iniziato a battere per Sonia. Ma questo è anche ciò che mi fa star male dentro, perché penso che non sia comunque giusto nei confronti di Anna e di Paolo. Lei ora mi telefona un sacco di volte al giorno, si sente mia e mi desidera in ogni istante. Ogni cosa che fa durante il giorno è rivolta, almeno con il pensiero, a me. Io invece non la chiamo quasi mai, in effetti. Non ne ho bisogno, perché comunque ci sentiamo spesso, in quanto mi chiama lei. A questo proposito, ricordo che un mattino viene nel mio ufficio e facciamo colazione assieme. Ho telefonato al bar che sta sotto nello stesso edificio e ho chiesto se potevano portarmi di sopra un cappuccino e un macchiatone. Mentre sto sciogliendo lo zucchero nel mio macchiato, Sonia mi dice: «Io ti telefono 20 volte al giorno e ti mando un sacco di SMS d'amore. Tu invece non mi chiami mai. Vuol dire che non hai voglia né bisogno di sentirmi». «Beh, lo hai detto tu che ci sentiamo un sacco di volte. È vero che mi chiami sempre tu, ma io non avrei nemmeno il modo di farlo. Mi anticipi sempre. Poi ho anche un lavoro che mi impegna e che devo mandare avanti. Ma almeno qualche messaggino. Io te ne mando tanti e tu non mi rispondi mai. Ma sai, in realtà non te li mando perché ho paura che Paolo possa scoprirli o che sia con te quando li ricevi. Tu, con i tuoi, mi metti in difficoltà con Anna, soprattutto quando li ricevo che sono a casa. Dovresti evitare di farlo anche tu, altrimenti mi costringi a tenere il cellulare sempre con me. Pensa se mia moglie ne leggesse anche uno solo. Ma ti immagini che disastro succederebbe? Sì, hai ragione. Io ho bisogno di sentirti, di dirti quanto ti amo. Certo, ma non dobbiamo mica fare i ragazzini. Siamo adulti abbastanza. E poi penso che io e te dovremmo parlare anche di questo, di quello che abbiamo intenzione di fare. Non possiamo certo continuare così, non ti pare? Hai ragione, ma sappi che io non voglio perderti. C'è un po' di imbarazzo nel suo viso. Mi guarda e dice: «Va bene, ne parliamo. Adesso vado a trovare Anna, così vedo se riesco a organizzare una serata per stare tutti assieme. Ho voglia di rimanere un po' con te». Perhaps it's the color of the sun cut flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down. No, get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you. I do not pace the floor, bowed down and bent, but yet, mama, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow, where you've been, don't bother me. Oh, bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. Mama, you're just on my mind. I'm not asking you to say words like yes or no. Please understand me, I have no place I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know. Mama, you're on my mind. Up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. E questa era Mama, You've Been On My Mind, Bob Dylan. Bob Dylan è uno degli artisti preferiti di Marco all'interno del libro di Lucio, che è qui in compagnia di Overbooking stasera e ci sta presentando Nulla è come sembra, il suo primo romanzo uscito appunto nel 2010 per Chimeric Editore. Io vi ricordo che la puntata con Lucio, come tutte le altre puntate di Overbooking, è sempre ascoltabile o scaricabile dal nostro blog di supporto. E l'indirizzo è www.bloverbooking.wordpress.com. Visto che questo Bloverbooking risulta un po' difficile ai più, lo spelling è Blover, esattamente come lo dico, Booking scritto B-O-O-K-I-N-G. Detto questo, lì troverete tutto quello che ruota un po' attorno al nostro programma, ossia oltre appunto ai podcast in ascolto o in download delle puntate, anche delle recensioni di cui ci occupiamo, le collaborazioni che curiamo assieme a Scuola Holden di Torino e tutto quello un po' che ruota attorno al nostro programma. Vi consiglio anche di visitare il sito di Radio Sandonà nella sua brand new veste grafica www.radiosandona.it. Per telefonare in trasmissione potete chiamare lo 0421 560993 oppure potete raggiungerci via fax allo 0421 560994. A questo punto io sono felicissimo di avere qui Lucio e andiamo a conoscere ulteriormente il protagonista Marco, che è il protagonista appunto di Nulla è come sembra. Allora, abbiamo detto fin qui che Marco viene coinvolto in una relazione extraconiugale con diciamo la moglie di un amico, e questa relazione lo porta a vedere la sua vita in qualche modo sconvolta, nel senso che lui si innamora di questa donna, dopodiché una serie di circostanze lo portano a veder finire il suo rapporto coniugale, come anche a vedere la fine della propria occupazione e a quindi a dover trovare un altro lavoro, nuova casa, nuova vita. Da lì Marco si pone nella prima parte del libro una serie di domande esistenziali, in sostanza cerca di darsi delle risposte a dei grandi perché che... sì, che gli frullano per la mente. Difatti, da quando è successo tutto, lui continua a chiedersi sempre perché, perché, perché, senza riuscire a darsi una risposta. Alla fine capisce che comunque una vera e propria risposta non c'è, nel senso che lui deve riuscire ad accettare comunque sia quello che è successo come una cosa che è successa e basta, senza dover per forza di cose trovare assolutamente una risposta plausibile e intelligente a quello che è successo. Di qui appunto mette in atto tutta una serie di ragionamenti, di riguarda le sue letture di un tempo, le sue letture sulla meditazione, sul pensiero positivo, sulla legge di attrazione. Ripensa un attimo a tutte queste cose, riesce a, in qualche modo, anche attraverso meditazione, lui accenna a una meditazione fatta allo specchio per riacquistare un po' di fiducia in se stesso. È una meditazione di Osho, appunto, che è un mistico orientale, e lui riesce a metterla in pratica un po' alla volta, e quindi si ritrova a riuscire a superare quello scoglio che invece lo portava a isolarsi e a continuare a farsi queste domande che senza risposta. Di qui appunto inizia a risalire la china e riesce appunto a mettere in pratica tutto ciò che aveva sperimentato solo attraverso la lettura, e riesce a metterlo in pratica di persona. Il pensiero positivo di cui parla appunto è quello anche trattato da lui 6. La legge di attrazione la conosciamo un po' tutti ormai, perché c'è un famoso libro, The Secret, che ne parla, dopo è uscito anche un DVD, quindi la gente oramai la conosce. La cosa difficile, secondo Marco, era appunto riuscire a mettere in pratica tutte queste nozioni che sono state scritte benissimo nei libri, però dalle proprie da dire al fare c'è di mezzo al mare, come si dice. Però lui cerca in qualche modo di riuscire a farlo, e dopo varie considerazioni sulla vita, su Dio, su un sacco di cose che gli vengono per la mente, riesce finalmente a trovare un punto di forza, che è quello di dire di concentrarsi in un unico argomento della sua vita per riuscire a riemergere. Di conseguenza applica la legge di attrazione in un'unica cosa, quindi portando tutta la sua anima, il suo cuore e tutto il suo essere nella realizzazione di un solo obiettivo. Il suo obiettivo diventa quello di scrivere un libro, appunto. Nonostante avesse molti altri hobby molto importanti nella sua vita che coltivava da anni, decide di scrivere un libro, anche se non aveva mai fatto nulla fino ad ora per quanto riguarda la scrittura. Però era un sogno che aveva avuto fin da bambino. Quindi concentra tutte le sue energie nella scrittura di questo libro, e man mano che lo scrive si sente bene, e fa anche una scommessa con se stesso, nel senso che dice: io voglio riuscire a pubblicarlo, e se riuscirò a pubblicarlo vuol dire che la legge di attrazione esiste e io l'ho messa in pratica. Quindi il senso del libro è proprio tutto qui: spiegare con un esempio di vita e di rinascita come si può applicare effettivamente la legge di attrazione, cosa che manca un po' in tutti i libri che parlano dell'argomento. Cioè, in qualche modo è una metafora, in un certo senso, scientifica della certo. legge di attrazione. Allora, io volevo chiederti, tu leggo qui che sei una persona assolutamente eclettica, ossia ti dedichi alla pittura, al disegno, alla fotografia, varie cose. Questo è il tuo primo romanzo. Cosa ti ha portato a avvicinarti al mondo della scrittura? Mi ha portato appunto questa passione che avevo fin da piccolino, e il fatto di essermi trovato in una situazione come quella di Marco. Di conseguenza ho dato tutte le mie forze per reagire, e la scrittura mi è sembrato una buona opportunità, nonostante, ripeto, che ho molti hobby che coltivo da anni, dalla pittura, come dicevi tu, con la tecnica dell'aerografo, e dalla chitarra, da tante cose, però mi sono concentrato sul libro perché pensavo fosse un modo per riuscire a spiegare anche ad altre persone che dovessero trovarsi in situazioni analoghe come si può fare a venirne fuori, e mi sembrava una bella cosa anche per tutti, insomma. Ci vuoi dire qualcosa di com'è stato il tuo approccio al mondo editoriale? È stato facile? È stato completamente da autodidatta, nel senso che mi sono informato attraverso internet. Attraverso internet ho trovato una miriade di case editrici, perché in Italia ce ne sono un disastro. Bizzeffe, sì. Chiaramente togliendo le primarie, senza far nomi, ma comunque ne restano a migliaia, e così ho iniziato a prendere da internet appunto un po' di indirizzi di queste case editrici e a scriverli. Dopodiché, una volta completato il manoscritto, l'ho rilegato e l'ho spedito a 32 case editrici, sperando appunto che qualcuno di queste mi rispondesse. Qui mi sono scontrato con un mondo nuovo, nel senso che il mondo dell'editoria italiana, non voglio usare il termine mafia, ma diciamo che comunque sia, è molto strano, che io sinceramente non lo conoscevo assolutamente e penso che non lo conosca la maggior parte delle persone che non si occupa di queste cose. Nel senso che mi sono scontrato con persone che per pubblicare il tuo, con case editrici che per pubblicare il tuo libro ti chiedono dei soldi. Quindi, oltre ad essere l'autore di un libro dove teoricamente la casa editrice dovrebbe credere in quello che è stato scritto e dire ok, scommetto nella tua persona, invece la scommessa si riduce al fatto che scommette comunque solo l'autore, perché deve tirare fuori anche i soldini per pubblicare il suo libro. Allora, di queste 32 case editrici mi hanno risposto in 6, 3 di queste volevano un contributo appunto da parte dell'autore. Vorrei fare un nome ma non lo faccio perché è molto pubblicizzato in televisione in questo momento, e questa addirittura mi ha risposto dopo 60 giorni, secondo me senza neanche aver letto il libro, e mi chiedeva appunto 3.200 euro per pubblicare il libro. Comunque sia, io ho scartato, diciamo, quelle che chiedevano soldi e ho ottenuto buone le ultime 3 che mi restavano. Parlando con i direttori di queste case editrici, ho scelto quello che mi sembrava una persona più corretta e più a modo e affabile, e così la mia scelta è ricaduta sulla Kimmerich, che è una casa editrice di Messina. Hai degli altri progetti in cantiere? Pensi che la tua collaborazione con questo editore continuerà magari nel futuro? Ah, penso di sì, anche perché questo editore si sta dimostrando bravo, nonostante, come dicevo prima, non è una casa editrice delle più grosse, però si dà da fare, lo si vede in tutto ciò che fa, anche come promozione. Sarò anche alla mostra, alla fiera di Torino nel 2011, e quindi si promuove in qualche modo nel miglior modo possibile, diciamo, sempre tenuto conto che non hanno tutte le disponibilità economiche delle grosse case editrici. Penso che pubblicherò ancora con loro il prossimo libro, che è già in cantiere, e io amo definirlo un romanzo esoterico. Ci dici un blog, un qualche tuo riferimento, perché so che sei attivo in rete? Sì, sono attivo attraverso Facebook, perché ho conoscenze, ho fatto un sacco di conoscenze attraverso Facebook e qui ho un buon riscontro. Dopodiché ho aperto un sito internet mio personale che prende spunto appunto dal mio nome, quindi luciocaneve.com. E dopodiché ho aperto un blog che mi sta dando molte soddisfazioni, che si chiama luciocaneveoverblog.it. Attraverso questo blog vedo dei buoni riscontri di persone che hanno letto il mio libro e che mi fanno dei commenti che mi lasciano perplesso, nel senso che sono tutti bei commenti e non ne ho trovato uno di negativo. Benissimo, io ti auguro le migliori prospettive poi per continuare questa tua carriera, e ti ringrazio tantissimo per grazie essere stati con noi questa sera, e rimando gli ascoltatori di Overbooking a martedì prossimo. Grazie, buonasera. Just as long as you stand by me. And darling, darling, won't you stand back? If the sky could look upon Nana, she'd tumble in the fall. All of the mountains may crumble to the sea. I won't cry. No tears, just as long as you stand.